Oh, mo Ok, sei adesso te lo metti. pronto a parlare? Adesso mi senti? 1, 2, 3? Non ti sento. Allora spengo. Mi senti? No, pronto? Eccomi. Ho 1, allontanato il mi senti? telefono. 1, 2, 3? Non mi senti? Io mi sento che esco. Piano piano, forse ti sento. Che Alza, cosa? ecco, che puoi alzare. Avvicinati. Sento che parlo. Ma tu senti a me? No, quello Si è il vede, riflesso vedo, del si muove. telefono, penso. Spingiamo il telefono. Guarda, la barra tua non si muove qua. Aspetta che forse Io sta ancora dico, in preparazione, spingiamo il può telefono che essere. forse. Sei ancora in preparazione, aspetta. Madonna, quanto ci metti. Vedo una. È molto tardi, è molto ritardato. Ecco, adesso ti sento, sei uscito. Sì, ti sento. Possiamo spegnere il telefono così? Sì? Ecco. Sì, adesso ti sento. Allora, Mi vediamo senti se adesso? riusciamo a parlare. Quanto ritardo c'è? Hola. Sì, adesso ti ascolto. Sì, ho già spento, mi pare. Vedi un po'. Sì. Mi senti? Eccomi. Hola. Ma riusciamo a fare un discorso? Prova. Per Mazza. capire il ritardo. 1, 2, 3, prova. Gianni. Gianni. Gianni. Io ti sento. Eccomi, mi senti? Gianni. Oh, ti sento io. 1, 2, 1, Hai mutato, forse non mi senti tu? Sa, 1, prova. 1, 2, 3, io ci sono. Hola. Non senti? Non mi senti? Non mi senti? sì. Hola. Bravo, Ci siamo sincronizzati, no? allora proviamo la latenza, vediamo il ritardo. Io dico 1, tu dovresti dire 2 quando senti il mio. 1. Sì? Gianni. Parecchio. No, c'è un sacco di ritardo, secondo me. 2. 2. Proseguiamo. Sì, io le sento bene. Anche la tastiera c'è sta un altro scintra. Maurizio. Uno, Sta due, entrando un amico. no, non credo. È tanto in ritardo. No, ho Eccomi. l'impressione di no. Sta entrando In un ritardo amico, enorme. vediamo come va con lui. Io pure lo sento. Hola, hola. Io Non lo riesce so, ho a parlare, capito. Gianni? Non Però è in tempo reale. non siamo sincronizzati. Non siamo Hola. sincronizzati, forse. Però non è in tempo reale. Ecco perché non parlano su questa piattaforma. Ti sento sempre bene. Ti sento. Sì. Io ti ascolto, ma da come rispondi pare che non corrispondono Va ai bene. tempi. Due. Sente bene, però non si riesce a parlare. Ora vediamo Maurizio. Troppo. Tre. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa con Maurizio, Tre. come musica. Questo è nato per suonare, quindi può darsi. Però Quattro. non è tutto gente che canta programma. c'è. Ecco perché non parlano. Bene, però in ritardo. Maurizio, sei tu? Batti in colpo se sei tu, Maurizio. Un Sulla certo chat modello che ce l'ha ha con te. scritto Hello Spaghetti Tom Morello dal Cile, pensa un po' questo. Sento. Sento la voce mia che torna indietro, Gianni, ma dopo qualche decina di secondi. Sarà il server che è lento. Traslochiamo? La voce sì, arriva in ritardo. Appena appena. Ho visto che pure per entrare ci ha messo tanto tempo, Ciao, ma forse ti sono i sento dopo BPM. tre quarti d'ora? Credo che siano i BPM che sono sbagliati. Allora è il server. Proviamo a traslocare? Però ritardo, e allora chi canta come fanno a Proviamo a cantare? cambiare stanza, dai. Proviamo a traslocare? Sì. Traslochiamo. Allora guarda, adesso ho messo a 16, vediamo se va meglio. Proviamo. Gianni, andiamo in un'altra, tanto mi trovi, lo vedi?